è che ti devi fermare come allo stop, è rallentare e all'occorrenza fermarsi. Se tu vedi ma che è passato e ti fermi, tutto lì, non è che sia come lo stop. Ma cosa devi fermare, se no se te ce la macchina di cude. Non fotti di dino, vai dritto, tanto la volta ti la sei affattente, però di una frutta. E infatti la puoi distruggere la macchina. Tanto non è la doia. La doia, ia. Questa gomma della... Adesso faccio vedere, stavo parlando, ho visto la gomma che copre il pomellone grande del VFO del 275H. Sono quegli occhiali, nera, sporca. Ma andami la ravo, la vostra ruccia. Vedi cosa servono gli occhiali? Molti li sottovalutano. Già, ti sei bello forte, Anto. Ecco, allora, facciamo questa. Questa io non so che cos'è. In caso di nebbia fitta, è opportuno accendere la luce posteriore per la nebbia? In caso? In caso di nebbia fitta. È opportuno accendere la luce, vaffanculo, in caso di nebbia fitta, è opportuno accendere la luce posteriore per la nebbia. Beh, certo. Questa abboniamo, dai. Attraversamento e passaggio a livello, senza rispettare tutte le norme previste e comportate esclusivamente lieve esenzione amministrativa, quanto non comporta reali pericoli per gli altri utenti. Sta interrogando Antonio, deve prendersi la patente e la vuol far prendere di nuovo a lui. Vabbè, dai, questa è falsa, dai, lo dico io. Se lo stesso vibra bene, fa controllare la bilanciatura delle ruote. Vabbè, questa è vera, dai, te lo dico io. Io quando andavo alla scuola guida, non per vantarmi, quando lo sapevo che cosa gli altri la chiedevano a me, diglielo tu come si fa, che cosa bisogna fare, io glielo dicevo, lo so di tutta memoria che sono i libri. Però e mi piaceva pure, a volte ci andavo anche due volte, perché mi piaceva ascoltare. No, io sono andato alla Formula 1, ma non quella di Via Pascoli, allora era Via Nunzio Cervi. Eh sì, già l'ho conosciuto, signor Salvatore Sedda. No, io l'ho presa privatista, ho fatto l'esame e la motorizzazione e poi mi ha accompagnato mio babbo, allora con la Renault 5 in Via Enzo, a dare l'esame di guida. Allora si va via così. Beh, te ne leggo una un po' cagagà, un po' rompipalle. La sosta, così come norma, e la fermata sono vietate davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani. No, non si riesce a capire al tuo. Scusami, ma arrivi troppo forte e non riesco a capire cosa dici. No, perché c'ha quest'eco strano. No, comunque davanti a nessun cassonetto ti puoi fermare. Ma allora, guarda, te lo dico così, la sosta, così come la fermata, sono vietate davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani. Sì, certo, non ci si può fermare. La fermata sì, ma la sosta no. La sosta è vietata, ma la fermata no. Esatto, nel senso che tu ti puoi fermare, butti la patente e te ne vai. Puoi anche fermarti normalmente, l'importante è che ci sei tu in macchina. Ti fermi, butti la bondessa e poi te ne vai. Beh, difficilmente la fermata è, come si dice, ha un divieto, ma che non c'è proprio il divieto di fermata. Se no la fermata è quasi sempre consentita. Appa, hai ragione. Quindi uno ci può fermarci se con dentro un cassonetto. Allora, ti puoi fermare, però non puoi sostare. È come il passo carrabile. Tu puoi fare la fermata, ma non la sosta, non puoi sostare. Però la fermata ti puoi fermare, è importante che ci sei tu, in qualsiasi momento tu usi la macchina. Non è vietata la fermata. Ma la sosta sì, se no tieni bigiani la macchina. Ma quello anche se il passo carabile è il tuo, Fa. E si conferma, a me mi sono attaccato un unico a Pascoli. che stava chiamando il caratteristico, ha detto guarda che siamo qua, ma io devo mettere la macchina, dove la deve mettere la macchina, faccia aprire, dentro o la deve lasciare lì, no la devo lasciare qua, no lì non la lascia qua, è che è casa mia, no la casa dove non deve compareggi, poi l'entrata e l'uscita si chiama passo carrabile, perché devi entrare e uscire, ho detto si consulta il vocabolario italiano cosa vuol dire passo carrabile, ma un po' così. Quindi una macchina non che la posso usare, no, se lei, se io la macchina gliela tolgo, giustamente, per carità, ci mancherebbe altro, però se lei mette la macchina qua, io chiamo il vigile urbano e gliela faccio portare via. Eh beh, si chiama passo per quello, se no sarebbe chiamata sosta carrabile. Ma non vedo l'italiano, lo comprendi a poco, bro. Sarà fatto di Olieno, di Sidini. No, no, era di Sorso, purtroppo. E allora vi avvito le patina pillelle. E tu ci eri creduto, però. Ma... ho detto, guardi, non ho voglia di imbiticciare, mi sembra che c'era Franco anche il giorno con me, perché non avevamo neanche la macchina, avevamo tutte e due, le moto le abbiamo messe nel passo carrabile, perché stavamo andando a prendere i caffè lì da ramo. E io ho detto, le moto devo entrare, ma devo entrare dentro? No, no, le spostiamo, le metto la macchina dentro e poi le rimettiamo, perché non c'è parcheggio. No, no, voglio di parcheggiare io in Kiwi, no, lei non parcheggia. Commenti, così, te lo dico io, non parcheggio. Però lo stesso sbaglio che ha fatto lui lo state fatto facendo voi con le moto, perché non si possono stare sul passo carrabile. I Kiwi ti vuoi io. No, e tu allora non hai capito niente, io la moto la stavo togliendo. Gli abbiamo chiesto la cortesia, se doveva entrare dentro, che se potevamo appoggiare le moto lì. E lui ci ha risposto, no, le moto in Kiwi non la vuoi, buonia chi ha giù, buonia la macchina mia. No, tu la macchina la metti dentro, non fuori. Capito? Io lo so che non si può sostare in un passo carrabile, queste cose le so, anche perché ho guidato come te e poi ho fatto il corriere, quindi lo so che non si può. Però le stavamo chiedendo la cortesia ed si è puntato e ha detto, no, non devo parcheggiare io lì, no, parcheggiare tu non parcheggi, non parcheggio io neanche tu, la macchina la prendi e la metti dentro, questo ci stavamo un po' attaccando, capito? Vabbè, ma c'è sempre gente che la pensiamo di suio, no, non c'è verso di farle ragionare molte persone. Così la pensano, può essere diversamente, ma la pensano così, sono ottusi e basta. Avanti Antonio, dai, io vi saluto e porto il cane in giù, dai. Ci sentiamo ragazzi, statevi bene, un po' continuo queste ore, mi ha fatto piacere, anche se la storia della patente è stato tutto un imbroglio, non ho capito un cazzo. Ciao Gian, un abbraccio al cane e buona passeggiata. Beh, ci credi che come io vi stavo salutando si è già alzato, era con cane siete bisogni. Vabbè, capisco, guardate che anche il mio gatto mi capisce. Quando sono nervoso non si avvicina. Che tema di trucco da Lumacone? Verino! Poverino sono io, sono quello padrono. Trucco da Lumacone no, Corareto, che li trucchi di officina. No, che sono al pian terreno io, c'è il giardino dietro, trucco da Lumacone e dopo lui si cerca la strada del ritorno. Appa, ma come mai tu stai arrivando fortissimo? Ma è migliorato qualcosa? No, mi ha prestato Claudio 100 metri di campo e mi sono collegato all'antenna sua. Ma così è, no, qualche cosa hai fatto, perché sta arrivando ben forte adesso. Non ti ho mai sentito così forte. Boh, non lo so, no. Claudio, tu ne sai qualcosa? Sì, sono pazzetto. Stiamo usando l'antenna in due, adesso vedi, come ha parlato Claudio ho dovuto spostare il commutatore. Secondo me ti ha già battuto l'antenna, gli hai fatto qualcosa. No, niente, non ho fatto nulla. Sono sempre uguale io. Perché prima non parlavo, adesso sto parlando ogni tanto. Oh, che cazzo, sei quasi. Sei 9.25 e oltre. Cioè, non ti ho mai sentito io così forte. Ma tu perché dove sei? Io sono qua in zona Corso Vicco. Ma fai tipo così forte in Corso Vicco? Io sono così zende. È che non ho il tuo numero, non ti ho contatto, so ti abbia mandato, ti abbia fatto una fotografia e te l'abbia mandata, vedi? Dove sei? 9.10? E anche, 9.5, 9.10. Non pensavo di arrivare così. Boh, Cla, cosa ne dici tu? Boh, qua si prova. Ma non è che adesso te ne togli la manta perché ti metti dentro la boomerang, no? Qua si 9 più 20. Arrivi, quanto Antonio arriva attaccato? Vabbè, ma Antonio... anche se c'è l'antenna migliore della tua, sicuramente, però c'è una zona diversa, c'è un ben alto. Lo so, è che a me mi frega, sai cos'è che mi frega rispetto per vederti bene a te? quel gruppo di case che c'è, che via è quella lì, alla fine del Ponte Nuovo, e alla fine di via Gorizia, c'è quel gruppo di case dentro quel coso, ci sono quelli in alto, quelle mi bloccano la tua visuale. Ah, sì, ho capito. E vabbè, mangiatevi bene. Sì, cra, che c'è un segnale d'Antonio, me te l'ha già mandato. Cazzo, ma non di te. Cazzo. Aveva forte qua, altro che. Ma la verità non l'abbiamo mai inteso così forte. E magari prima mi ascoltavi quando ero in campagna, adesso sono in città. Vabbè, non c'è un'antenna tu, se c'è l'antenna, prima non avevi antenna. Vabbè, avevo quella. Quella antenna strana, che è davvero è un mistero quell'antenna. Perché non si sa se sta facendo col cavo o con l'antenna. Però io vi ascoltavo bene. Cioè, anche se molte volte Massimiliano diceva, io non sento Antonio, ma lui lo sentivo bene. Cioè la ricezione era buona, e la trasmissione anche a gatta. Approccio di Coboro. Sì, quel cos'è? La mia era quella della CTE, la. Non mi ricordo come si chiamava. Non mi viene in mente. La Stormo 23, c'era la punta, ma per me da me pompava. Andava bene. Certo non è che è, però andava. Non so cosa dite, io ripeto, sentivo praticamente quasi tutti, tranne chiaramente Alghero, quelle zone lì, che non le sentirò neanche adesso con questa, però sentivo Sorso, però non mi intendia nessuno, manca balla. E c'era qualcosa che non andava, tanto c'era qualcosa che non andava, perché la mia ne ho avuto due o tre, pompavano. Cazzo, ce l'ha avuto anche sul balcone, pompava, andava bene. Così, Beh, raga, io vi saluto, vado a cenare, un abbraccio, buona cena quando l'ha fatta e ci sentiamo alle prossime, ok? Se coincide è più tardi, tanto sono qua in stanza perché devo guardare la partita, se no a domani, ok? Ok. Bene, ciao Cla, buona cena, buon proseguimento. No, io adesso aspetto altri 10 minuti, poi ceno con mia moglie e mia figlia, poi mia moglie va al lavoro. Mi curico perché domani mattina la sveglia alle 5:30. Cazzo, la moglie deve andare. Sì. Prego di bei tempi, anch'io, lo trovo tutti. Per 30 anni mi sono alzato alle 5:30. Io adesso era un po' che, però da un po' di anni io, ti ricordi che prima lavoravo sempre a Olbia, quindi mi alzavo sempre a quell'ora, poi invece c'era lavoro qui, adesso non ce n'è più né qui né lì, che mi ha già chiamato, mi ha detto finito questo, non si sa se c'è qualche altra cosa da fare. Il mondo di tutti sta diventando, grazie. Infatti sono non preoccupato di più, vabbè, comunque ascolto, d'altronde meglio così che peggio. Che dici, io ci guardo a te. E quindi, Bomori, dai, ci sentiamo dopo se ci siete, ok? Ok, dai. Ma ti hai messo la Energy, ti hai messo, quella che mi avevi detto? No, quella l'ho messa in campagna. Ciao, Cla, comunque di nuovo. Qua ho messo la boomerang della Lem. Cavolo, quella che c'avevo io. Cazzo, questa bomba. Ma pompa vero, bello vista. Ma io diciamo che in tutta quanta la mia vita da CB, che ho iniziato quando avevo 17 anni, adesso ne ho 49, la boomerang non l'avevo mai comprata. Ho avuto Grand Plane, Ringo, quanto va Turbo, quanto va uno Stellar, la BA27L, ne ho avuto una miriade, la Tornado 27. Questa non l'avevo mai acquistata, però ti posso dire che sì, a parità di resa è una buona antenna, il prezzo è alto, la costruzione è esile, però non è male. Cazzo, ce l'ho avuta io, ce l'ho avuta per un mese, pompava altro che, poi mi hanno portato questa Ringo e mi sono piazzato questa Ringo che va bene per me, va benissimo. Cavolo, quella è un bomboe. L'ho venduta, no, ma è stato soddisfatto che gliel'ho venduta. Ripeto, io l'ho acquistata nuova. Diciamo che per il prezzo che costa è cara, perché non se li fare quei soldi. Però, tanto non avevo voglia di mettere un'antenna molto ingombrante, molto... Ho detto, ah, prendo questa, bene o male, riuscirò a parlare con qualcuno e poi... Tanto mi serve solo per parlare con voi che siete qui in città, no? Non sono un tipo da DX, da collegamenti, perché non mi è mai piaciuto neanche quando avevo antenne grandi, pali alti, altre cose. No, fregate, chi ci arrivi pure, arrivi un po' di roga, arrivi a muro, ci arrivi in mia roba, arrivi. Te lo sto dicendo perché io ce l'ho avuta e pompava forte. Andava bene proprio, Cazzo me, zero i stazionari mi dava, tutti i canali. Beh no, io l'ho dovuto tagliare un po', l'ho dovuto tagliare un pezzettino perché nei canali alti saliva 1,3, 1,4. Allora gli ha tagliato, cosa sarà, 12-15 centimetri e adesso diciamo che in 240 canali sarà cava con 1 a 1,1. Quindi al massimo 1,2 nei canali alti, proprio nell'ultimo canale della banda E. Aspetta, a proposito di Muros, ma da Muros non sta più entrando nessuno? Sì, ieri notte è entrato, Chio da Arrugginito e poi ho sentito Capri 2. No, perché ogni tanto entravano. Ma invece quel ragazzino che entrava sempre, no, non si è più sentito. Non ha già ben inteso. Ci sarà stancato. Perché comunque non è una passione particolare questa. Lo so. E tuo fratello? Non l'ho più visto, cara. Mio fratello sempre da una parte all'altra, lavorando, già lo sai che lui si occupa di giardini, condomini, lido, villaggi, manutenzione qui, manutenzione lì. Aveva intenzione di piazzarsela all'antenna, gli avevano fregato tutto, apparecchio, antenna, amplificatore, alimentatore, e dice già la piazza, è già la piazza, non ne ha mai messo. Sono con Adi che non rubeggo. No, noi già ci conosciamo bene con Cristian, molto bene. Ah, perché per lui che aveva tolta l'antenna, io quando sono andato via da casa dei miei genitori ci ho lasciato la mantova 1 lì che era appesa su 11 metri di palo, e ne l'ha tolta lui, io lì l'ho lasciata. Scappa. Ma mi ricordo che modulava la campagna, io mi ricordo. Sì, sì, ma ti parlo... gli avevo dato addirittura allora, quando avevo smesso di parlare io, nel 2004, forse nel 2003, gli avevo dato l'Alan 8001. No, ancora in scatola era. Mai utilizzato. E poi se l'ha venduto e niente, non ne ha più utilizzato. Poi gli avevo dato un Mobicom, forse quello ce l'ha ancora però. Sì, e cosa vuoi fare? A capusuglio Adesso gli ho dato un Lincoln che avevo fermo lì, lo scaffale, lo vuoi questo? Ti piace questo? Gli ho dato un Lincoln con un DD+4. Lincoln gli ha dato? Sì, il Lincoln è l'NDQ4. L'alimentatore gli ho dato uno di quelli però cinesi, di quelli da 30 ampere però cinesi, non di quelli professionali. Sì, già va bene. Se ne ha voglia lì, ma c'è qualcuno? C'era rimasto qualcuno qua? Pare di no, c'è qualcuno? Tutti chiuso hanno, perché io poi mi sono assentato, sono salito su, sono andato a prendere mia figlia e quando sono andato poi io ho sentito solo voi. E cappa. Oi, ma i tuoi genitori sono morti, sono, no? No, i miei genitori sono vivi tutti e due. Ah, tu mi parlavi di casa... Ma lui se n'è andato di casa dei tuoi genitori? No, lui vive lì con i miei genitori. Io ti ho detto, quando sono andato via da casa dei miei, perché quando mi sono sposato sono andato via da casa dei miei, no? Però io utilizzavo l'antenna, ma ho lasciato tutto quanto lì. Anzi, non solo, avevo lasciato lì tutto praticamente, alimentatori, amplificatori. Tutto quello che avevo era rimasto lì. Non ho portato via niente, c'era una casa attrezzi che adesso non c'è più perché è crollato il tetto, però era tutto lì dove io riparavo TV, riparavo apparecchiature quando ero ragazzo. Poi una volta che sono andato via, niente, non ho proprio lasciato tutto lì. Ah, capo, capito. Non ha più modulato. E da voi va. Sì, magari. Magari gli piacciono altre cose, cosa vuoi? No, non è così, no, è che non ne ha voglia, perché comunque adesso se vuole modulare si deve ripiazzare l'antenna perché l'aveva tolta. Poi non ho capito neanche perché cazzo l'aveva tolta l'antenna, era lì, era ben con tutti quanti i tiranti, c'erano praticamente 3, 6, 9 tiranti perché era alto 11 metri il palo. Non ho capito perché l'ha tolta. A Bovardo bisogna domandare a Vito. Ma io non ho felicità, non gliel'ho mai chiesto. Adesso quell'antenna lì io ce l'ho piazzata a casa mia in campagna. Cioè in campagna l'ho messa, anche se c'ha la base, perché poi era stata, come l'ha smontata, era buttata in un angolo, c'era rotta la base dove attaccano i radiali, quindi praticamente radiali non ne ho, però l'ho accordata e sta funzionando bene anche senza radiali, la sto utilizzando in campagna. Ah, cappa, una scena, eh. Ah, ma cosa non la gallaccia invece di fasciarla? Non lo so, c'era anche il dipolo collegato sotto l'antenna, c'erano tante cose, boh, ha tolto tutto, io non gliel'ho mai chiesto perché non ho mai fregato niente. Addirittura c'aveva anche una Stellar mia, una 5-8, una Stellar, che tipo la Mantova, anche quella è stata smontata perché ce l'avevo, quella ce l'avevo piazzata dove riparavo le TV, nella casa Tretti. Quando ero lì che stavo facendo riparazioni, la sera ogni tanto mi facevo un passaggio, allora c'erano tante persone che modulavano, non è come oggi, quindi c'era sempre gente. E anche quella poi è stata smontata, però quella ce l'ho io, me l'avevo portata via io appena, diciamo, sono andato via. È fatto bene. Almeno quella è nuova nuova, vero? Quella è nuova nuova, ce l'ho sempre in garage, qui a casa non l'ho mai toccata, è lì. Fra 10 anni diventerà un pezzo d'antiquariato. Sì, Bojo Creepy. Chi è che mi crepa? Ma chi? Bojo Creepy, Antonio, Bojo Creepy. Comunque hai finto che ti metto la porta. A me ce li senti. No, però c'è un bel segnale, Però arriva bassino, Come bassino? Bassino sì, in confronto agli altri, Antò. Qua sei Santiago 9, non è che in confronto agli altri che arrivano 9.20, 9.30, chi 9.40. Ma chi è che arriva 9.40? Claudio? No, Giulio. Ah, perché Giulio c'era di fronte, anche a me quando sono in campagna mi arriva a tiro di balla. Eia, infatti. Vabbè, non proprio 9.40, comunque si avvicina molto. Poi, vabbè, non posso dirti che mi arriva 9.40 perché io in campagna una cassa non ce l'ho. Però, sì, in effetti, Giulio, da quelli, diciamo, in campagna, quelli che mi arriva la bomba sono Franco di Sorso. Ma è... È un casotto. Però anche io mi difendo da campagna, Vabbè, noi diciamo che siamo bassi, però nello stesso tempo dobbiamo superare una piccola collina per essere all'altezza della voce. E vabbè, devi considerare che io per colpa di quei cavolo di cavi della corrente non ho mai sollevato l'antenna perché ho paura che mi si colichi sopra, quindi ho il radiale sul tetto, però se metto due gaffe e la sposto nel bordo della casa dall'altra parte e ci metto un paio da 6 metri riesco a ottenere il risultato. Ah, hola. Sì, certo. Sì, Antù, anche se si attacchi, arrivi 9.10 qua, ma lascia perdere, sono basso io, capito? Beh, ce l'ho pure io l'antenna bassa. E lì come ti arrivo, Antù? Stai saturando, sei 9 più 18. Kappa. Vabbè, lo so che sto saturando. Però non hai picchi di nessun tipo, almeno da me non ne ha, da te? No, neanche, perché si abbassa di una stacca, non so la sto usando, ha più picchi positivi, il segnale lo stesso. Quel difetto lo fanno quei lineari della tipo B300, fanno quel difetto lì, che quando attacchi ti dà un po' un segnale in più, però non ti dà picchi di nessun tipo. Sì, guarda, aspetta. Cambio il radio, tu, metto il link, così mi dici come mi ascolti. B300 già ce l'ho, ma non c'è quello attaccato. Eccomi. lo sai che come modulazione è buona anche questa, è molto metallica, però è buona. Metallica, boh, non so, sono sogni che ci ho toccato i tassini, i tuni, niente, boh, non lo so. Questo è il Lincoln, hola, hola, picchi ne hai, hola. Ma sei liscio o sei accompagnato? Ah, sì, accompagnato, aspetta, così è liscio. Ora, ora, però posso alzare dalla radio, No, vai bene, in tutti e due i modi, però si vede la differenza, da 9,5 a 9,20 fischiato. Aspetta, però guarda, aspetta, Allora, così sono 5 watt. Così sono quelli dell'apparato, Ora, ora, ora, ora, ecco, forse così è arrivato, guarda un po'. Perché sta iniziando già, si sente che sta iniziando già a comprimerti, sei 9,10. Ma sono dell'apparato, questi sono dell'apparato, io lo lascio, lo metto a 5. Ecco qua, 5 watt e poi lui. È facile, da 9,5 a 9,18. Il problema mio è che io a confronto a Tino sono già, cazzo, io gioco già in un fosso, lui è più, è come me in un fosso, è logico che un pochettino, però già va bene, dai, anche 9,10 bastano, e a confronto come te la prima che era molto di meno. Sì, Anto, adesso per dire, con questa radio arrivi Santiago 7, ma dipende dagli Smith. Guarda tu ora i picchi, ora, ora, e la radio si è cambiato, No, la radio è sempre buona, i picchi ci manca un pelino al più 20. Aspetta, ti accontento, aspetta. Ora, ora, ora, è arrivato? Sì, adesso sei più 20. Ma non ti muove dalla tacchettina del 20, Perché così diciamo che non ha positivi. Come non ha positivi? Ce li ha lo stesso. Però ripeto, non si muove dal 20. Cioè i picchi positivi lo stesso, però si incollano sul 20. Aspetta, adesso provo a sovralimentarlo, tanto c'ho un amico che me la giusta. Sì, dagli 5. Ma poi la 2,20. Aspetta, ora, ora, ora, è così, guarda, 1, 2, 3. Sì, non ti muovi dal più 20, a meno che non ci sia un altro filettante qua, la 140, blocca. Aspetta, no, allora abbassiamo, così va meglio, dai, 1, 2, 3, prova. Sì, vabbè, così fa, dai, è un tantino meno del 20, però adesso che hai parlato della sovralimentazione mi sono ricordato la volta di Marcello col Diane scendendo al ponte nuovo, cioè, ha preso la rincorsa e si è illuminato il macchino, perché il Diane aveva la dinamo. Già, lo so, guarda adesso, ci pula col 20, ora, ora. Oh marazzurri, sei bruciato, c'ero maracchino. Stai arrivando più forte di Antonio. Ma scusa un attimo, ma io non so, Hai di bravo. Guarda che c'è un amico che mi aiuta a me, Tu stai usando quella farina dorata là? Che già arrivi, di certo arrivi, no, che con poco di tempo. Vi sento tutti e due assieme quando parlate. Aspetta un attimino. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova, parla Antonio, parla sopra. No, parla sopra, guarda, se ci dice 1, 2, 3, prova, passi tutto. Ora. Pensavo. Porca miseria, ma ci pensi? Che comunque c'è molta distanza, Aspetta, quando sta con l'antenna appena più su. Allora poi vado a Gigetto e non che... Oh yeah! Anto, prova a attaccare tu, Bombo, attacca! Attacca e prova a parlarmi sopra, guarda, dai! Prova a attaccare però! Già attaccato, non ti preoccupare che già attaccato! Quindi? No, non è attaccato uno sopra l'altro! Prova! Anto! Ribiello, un attimino. No, prova tecnico, devo andare a stare, non è tre passi tutti. Mannaggia, che A me non si dà il cane che dorme, che ne salgo il valvolare. Se avete le quali ho due e uno lo devi controllare. Adesso io, se riesco, me lo taro. Il valvolare lo uso con questo. Voglio vedere, dici, non si può usare la KF, ti rimonto bene io. Comunque, va, no, vabbè, quello che ho io, mio, mamma, prendo anche da un tiro qua, se, però no, no, non mi interessa, non mi interessa usarlo. Io uno da 200 watt, però da base. Ehi, quei due verdi. Sì, però anche uno sicuramente hanno tolto dei pizzi. Se riusciamo a farli non sarebbe una cattiveria. Ma secondo me sono tolto, non li trovi, anche perché lo sai cos'è? Io ho avuto problemi a trovare il finale di questo, a parte il fatto che mi sono costicchiato. E poi c'era anche il rischio che non fossero originali. E anche secondo me non sono originali comunque. Hola, hola, hola, hola. Facciamo i bravi. Ma tutti i bombenti siete. Ma hai sciabili come te i nonchi? Liscio liscio. Vi siete sovraschiacciati a Roberto Falcone. Meglio fargli segnale questo. Ma tagliettino in varia. No, non passa più nessuno, né uno né all'altro, ti non sento né uno e né all'altro. Vai Antonio, vai, hola, 1, 2, 3, prova. No, non ha parlato, se ha parlato non ho sentito. E vai, vai Tino, vai. No, non sento nessuno dei due. Allora siamo alla pari, tu, dai, siamo alla pari, va bene. Tutto bravo, però sento un mischio di frusci, inneschi e ambaradam. Ma ti pare che non che in cantina, ma cadere la vena, ma cadere si può usare la iatta. Guarda, non so se cambia, Anto, guarda il segnale. Ha cambiato? È un bel saturo di attenuare, però la radio si è andata completamente in viale Porta Torres. Sì, sì, sì, guarda, ora, ora, ora, ora, ora, ora, di più non va. Attenuato, se 9 più 10, però la modulazione è una zantara. Se ne va, lo so, anche perché non so dove ha diventato. Beh, così è la sua. Sì, vabbè, la terza, la quarta posizione, poi il resto è noia. Oh, ripeto, in lontananza magari può fare il suo effetto, però in vicinanza è lì dalla questione. Questi amplificatori sono fatti così, sono fatti per la lontananza, chiaramente se non raddoppi o triplichi la potenza il segnale non te ne cambiano, cioè se per passare da 5 a 10 watt devi almeno passare, devi triplicare la potenza per un punto S, se sei 9 e vuoi arrivare a 9 e 10 devi passare da 5 watt almeno a 30 watt. Eia, va bene, dai, a tu, bombolo, dai, vi lascio le prove che adesso vado a mangiare anch'io, dai. Mi sono sforzato poc'anzi ma non ho risolto. Male, male, male. Io vado tra 10 minuti. Vabbè, dai, buona cena. Ci sentiamo. Buon proseguimento. A capa. Buona cena. Ma chi ci chiedi a Berommi? Ma cos'hai, un 747? Ma fa avevo il 747, adesso non ce l'ho più il 747, adesso c'è il B150. Ah, non mi piace, non ho... io ho avuto anche il B300, il B550, non ho... sono... vanno troppo in distorsione quelle linee lì, mi piace più per quanto è piccolo il 747. L'avevo poco qua, ce l'avevo. Sì, quello per me mi piace, poi vabbè, quelli delle RM Italy sono tutto altro pianeta, però non vale la pena spendere quei soldi lì per giocarli. Va bene. Scappa. A me mi piacciono i giocattoli. Io qualche giorno me ne prendo uno a mezzo chilo a provare così. Ma vai, lasciate perdere, le uscite lisci come l'olio. No, io invece quando ce l'ho poco non me ne frega niente, anzi, ti dico la verità, adesso me lo faccio arrivare con un chilo e gli faccio mettere le valvole, mi sa che ce l'ha fabbrito le valvole nuove. Ma tu sei in campagna, è diverso, che in città, cosa te ne vuoi fare? anch'io vado, sto cascando troppo in luce, cazzo, per quello è me. Appunto, ma lo sai, adesso ridendo e scherzando, quello che io 750 watt da puliti è a strumento esterno, non a strumento usuio, ecco, da 40 ne pagavo di 40, 75 ne ho pagato, ho giocato 4 passaggi. Ah, quello verde, sì, mi ricordo, quello di qua in campagna. Sì. 75 euro di corrente, di solito ne pagavo 42-43, considerati che io lì ho forno a gas, sono la bagno a gas, tutto a gas, se c'è la corrente ne la giù consumata. Allora bisogna mettere un gruppo elettrogeno, vorrei che non spendi, metti poco, a benzina, a gasolio, ne metti pochettino, non spendi con quello lì. Ma il problema delle... dell'alternata o del del risolto? No, dell'alternata non l'ho risolto perché non l'ho mai toccato, no, ripeto, come era lì, è rimasto lì, lo sai che ti non mangio mai cane, va nulla io, c'è niente di... non sono più appassionato a queste cose. Se avessi risolto quel problema lì l'avrei venuto domani mattina, ma non l'ho chiesto, anzi non volevo neanche così. No, vai, prima di venderlo devi proporre a me. Ma davvero che mi hanno detto, dice, no, ce la prendo anche così, dice, vabbè, chiaramente mi davano qualcosa in meno, però 250 euro me le volevano dare. Sì, al volo. Va bene ragazzi, dai, vi lascio, vado a mangiarmi qualcosina. E niente, ci riascolta le prossimine. Adesso ho questo mic e quindi vi saluto con questa radio. Ciao, divertitevela. Ciao Tida, tanto anch'io tra un po' chiudo. Vedi? Adesso mi sono stabilizzato alla potenza. Anch'io tra un po' chiudo e me ne vado a cena. Riprendi anche tu. Accappa, dai. Ciao Tino, ci risentiamo alle prossimine. Ciao ciao. Eia, ciao, divertitevela. Adesso potete anche spegnere le trasmissioni. Eccomi qua. Yeah. Abbassa a due. Un po', abbassa, perché tanto non serve a nulla, sai, no? Prova. Però ce n'è, Eia. Qua, sono con 4 watt, com'è? Sì, buono, il segnale è buono. Anch'io sto uscendo, mi aspetta. 4 watt modulati 12, ma proprio esagerato. Io sono proprio con 4 watt. 4 watt. Poca potenza. Vabbè, questi qua, queste radio qui hanno dei picchi positivi allucinanti, quindi molte volte possono passare anche da 10 a 80 watt. Già lo so già, cos'hai? Questo è il piccolino della linea, il primo nato degli anni 90. Che ne ha c'è scritto? È il 140 questo. È buono. Questo qui è buono, sì. Io poi ne ho avuto tanti di questi. Forse 3 o 4, no. Uno l'ho venuto a questo, 2, 3. Questo è il quinto. Il quinto che ho avuto. 5 di questi, 2 440, un 850, un 450 che mi è durato niente, perché poi l'ho scambiato con un'altra radio, e poi basta. E solo Kenwood, di altre marche non ho mai avuto nulla. Ho capito, da. Ma il microfono è il suo originale, stai usando l'MC60? Non penso sia MC60 quello. No, sto usando il microfono originale del Multimode 3, perché il suo originale non ce l'ho. E costa, ma la zucca. No, l'MC60 l'ho venduto insieme al 440 un po' di mesi fa, quindi adesso non ne ho. Il microfono originale non ne avevo neanche nell'altro, e quindi sto usando, gli ho fatto le connessioni, sto usando un microfono dinamico normale del Multimode. E comunque uno di quelli che si assomiglia di più. Già è buono però, dai. Ehi, vabbè, quello che è, magari con l'MC60 la cosa cambia, ma non ho intenzione di comprare nessun MC60. E che costa, mi stavano dicendo? Dice che costa un po'. Infatti, ma no, ripeto, per fare 4 chiacchiere non me la puoi dire, anche perché comunque a me, ripeto, i microfoni da tavolo non è che mi piacciono tantissimo, perché se no l'avrei potuto collegare più 4, c'è un più 4 di aver collegato quello, però preferisco si sta al mare, perché qui sta con tutto e ritiro tutto, capito? Non lascio niente mai in giro. Mi sa che se decido di mettermi pure io il microfono così da tavolo è un casino, perché qua io molte volte mi sdraio, ce l'ho dentro in camera, mi è il baracchino, quindi è un casino. E infatti anch'io sono sempre stato abituato a utilizzare il palmare, perché quando modulavo di notte avevo praticamente il comodino vicino, utilizzavo il palmare e parlavo sottovoce per non disturbare i miei fratelli che dormivano in stanza. Avevo anche l'MC60, ma quello lo usavo durante il giorno, poi la notte prendevo il microfonino palmare, me lo avvicinavo alla bocca e parlavo sottovoce. Ah, oh, è bellissimo l'MC60, l'ho visto io. E poi il microfono più indovinato per quegli apparecchi lì, una bomba e pompa voce, pompa, va bene. Guarda, avendo un po' di possibilità, meglio me l'avrei preso tutti e due. Sono convinto che da qua è riuscito un bel forse. Vabbè, l'MC60 deve essere sempre collegato a un apparecchio della sua razza, se no come microfono non ce n'è. Sì, che voodoo ci vuole? Il 440, il sin radio? Beh, se l'MC60 lo colleghi a una radio qualsiasi, è meglio, a quel punto è meglio di più 4, però se lo colleghi a un apparato della sua razza, diciamo che si difende. Cappa, beh... sì sì, no, ma è così, è una bomba, cavolo. E beh, vivono in radio show e vivone. Adesso qua io sto utilizzando il coso, il M1000 sto utilizzando. Cavolo, ce l'ho da un bel di anni, ce l'ho. Proprio quello di M1000, perché gli altri che hanno fatto sono con la marca Froxel. DM1000? Non ce l'ho presente, no? M1000. Cavolo, adesso li fanno Proxel, c'è anche l'Echo c'ha dietro, c'ha i pomellini. Ma quello che ha i due trimmerini dietro? Sì, quello lì sto utilizzando. Che ci assomiglia al 1300, il vecchio 1300 della Intec. Ehi, che cosa del genere, sì. Ah sì, ne ho anche uno io da qualche parte di quello. Non lo so però se è marchiato Proxel, no, non ho idea. C'ho quello originale con la scritta 2DM1000, poi gli avevano fatto i Proxel. Io, boh, aspettatelo. La roba di 1000 anni che ha. No, tu cosa c'hai, proprio DM1000, DM1000? No, non lo so, adesso. L'Echo, la regolazione della pubblicazione, sì sì, però non mi ricordo, non lo vedo, non mi compare. Tappa, perché l'avano fatti così, l'avano fatti dopo qualche anno, cioè il DM1000 poi c'era lo stesso con la marca Proxel. Ma che bella macchina che hai usato? No, Fagliati Zeus. No, no. È nuovo, l'avevo comprato da Fusaro. Molti hanno la mascherina nera. Quello che ho io c'ha la mascherina argentata davanti, è il display blu. Ah, ho capito, quindi è di ultima generazione, non è una radio. È di ultima generazione, sì. Ho capito. Come? Ho detto, perché mi ricordavo tanti Lafayette, ma questo, questo Zeus non mi dice nulla. Beh, sarà uscito 5-6 anni fa, roba di 5-6 anni avrà questo apparecchio, non di più. Beh, ho capito, io uso solo quello, non ne hai altri. Io stavo usando l'Intec 550 Power. 550 Power. No, perché ho cambiato, perché l'altro non lo supporta l'amplificatore, capito? Come mai? Troppi watt, è di quelli di esportazione. Ah, e non si possono regolare? No, c'è i codici, c'è i finali Mitsubishi, c'ha quelli di nuova generazione, a MOSFET. Cioè, la verità, lo lascio così, non mi interessa, lo lascio così perché va benissimo, va. Sì, vediamo che c'ha 12 watt, una cosa del genere, ma una bomba, mi funziona con una meraviglia. Beh, no, perché sono molto compatte. Sì, sì, questo è piccolino, l'altro è normale, come sempre il veicolare normale, che non è neanche tanto grande. Questo è piccolino, ma va bene, mi cavolo. Ce l'ho un sacco di tempo e funziona che è una meraviglia. Sempre avevo pagato 120 euro da Fusaro, l'avevo pagato, capito? Ma tu a Fica la cosa lo conosci? Beh, che ci siamo sentiti in radio e poi ci siamo visti di persona anche. Ma lo conosco da tanto tempo. Ah, ho capito. Ci conosciamo di persona pure, ci conosciamo molto bene. Sì, sì, sì, ci conosciamo molto bene anche con Cristian. E come? Quindi tu praticamente hai iniziato a parlare quando sei su io nel 2004? Sì, no, molti anni prima. Vabbè, chi sta prima del 2004 non parlava? Oh, vabbè, no, io l'ho conosciuto in quegli anni lì, quando hai smesso di parlare tu, diciamo, cioè in quegli anni lì l'ho conosciuto. Io, diciamo, ho parlato dal 1987 fino al 2003-2004, ho smesso. Ho ripreso nel 2006, poi ho smesso un annetto, non ho fatto a... Kappa. Vabbè, ogni tanto già si ha voglia di parlare, dai. Vabbè, dai, che dai, mi ha fatto piacere. Dai, ci sentiamo. Buon proseguimento di serata. Ci risentiamo magari in città. Saluto anche tutti gli ascoltatori che sicuramente non sarà uno. Sì, ciao ciao, buona cena. Sì, più di uno, bene, no, che. Ok, dai, ti lascio andare, se no è un macello. Sì, ciao ciao ciao, ciao ciao.